Aldo in Arcadia. Un giorno d'estate la principessa andò da Aldo. Giornata splendida per un giretto. Ottima idea, ci sto. Dove si va? Oh, fai tu, Aldo. Facciamo un viaggio a sorpresa. Che ne dici, eh? Aldo si tuffò nella Via Lattea. Fantastico! Ma vorrei aver portato l'ombrello. Guardala! È un enorme pezzo di formaggio. Dai, Aldo, passiamo attraverso uno dei suoi buchi giganti. Ecco la luna. Anche quella è fatta di formaggio. Andiamo a vedere. Là ci vive un mio amico. Principessa, ti presento l'uomo della luna. Molto piacere. La prego, si fermi per il tè. Aiuto, guarda quanti topi! Stanno divorando tutta la casa. Eh sì, ora che il formaggio sulla luna è finito, mangiano qualsiasi cosa. Attento alla coda, aspirapolvere, che te la mangiano! Guarda, li ha aspirati! Spero che non gli faccia male. Se lo meritano, così non gli daranno più fastidio. Aldo! Esclamò la principessa. Aspirapolvere mi ha dato un'ottima idea. Ti ricordi quell'asteroide di formaggio? Trasferiamo i topi lì sopra. Cominciò la caccia ai topi. Presto! Attento, Aldo! Dietro di te! Ecco fatto! Aspettatemi qui voi due. Facciamo in un attimo. Spero che i topi non soffrano il mal d'aria. Aiuto! Fateci uscire! Eccovi qua, topini. Andate e buon appetito. Delizioso! Aspirapolvere, sei finito di farti portare in trionfo. Andiamo a far merenda anche noi. Ecco qua, amici, servitevi! Evviva! Non è straordinario, Aldo! E domani cosa faremo?